Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta. Ma io sono contentissimo e orgoglioso di essere al Milan. E sono nato e cresciuto qui e nella mia testa non ci sono mai avuti dubbi. Mi dispiace solo per i tifosi che si sono sentiti traditi, ma non c'era questa mia volontà e non c'è mai, nella mia testa non c'è mai stato questo. Quindi niente, sono molto, molto orgoglioso, mi dispiace solo per i tifosi e li ringrazio anche in questi 2 anni che sono stato qui di avermi sempre sostenuto e niente, sono orgogliosissimo di essere qua al Milan. Ma io ringrazio prima di tutto il direttore e il dottor Fassone per le belle parole e sono davvero felice oggi di essere qua con mio fratello, con tutta la società, quindi per me è veramente una cosa bellissima ritornare a Milanello, visto che ci sono stato già un po' di anni fa, di rivedere tante persone a cui mi ero affezionato e quindi è davvero una cosa bellissima. Poi potrò, diciamo, stare in camera con mio fratello, quindi passeremo i ritiri insieme ed è veramente una bella cosa e farò di tutto per, mi allenerò bene, farò di tutto per meritarmi questo posto. Che meraviglia, cose preferite, che tristezza. I Donnarummas, telenovela estiva, come mi suggeriva Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, invece Edoardo Lavezzani in redazione. E voi siete davanti alla radio o se siete davanti a un computer, anche webcam, pagina Facebook di Tutti Convocati. Avvocato Ielpu, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Grazie a te Mario. Di portieri rossoneri attuali stiamo parlando, portiere rossonero sei stato tu. Fossi un tifoso del Milan, la prima sensazione che proverei è di un come minimo leggero imbarazzo, posso dirti. Tutti felici, però ragazzi. Beh sì, se lo potevano risparmiare, no? Non quello di oggi, ma quello che hanno fatto prima poteva essere risparmiato, la trattativa poteva essere fatta con maggiore eleganza. Sì, sì, sì, ma poi Mario, questa storia del fratello che arriva lì, possiamo dormire se ha bisogno di una babysitter che costa 1 milione di euro a stagione, la babysitter più cara d'Italia, credo, quantomeno d'Italia, poi no, non voi dire, sono un po' invidioso perché io dopo 300 partite da Mario, professionista ho guadagnato di meno del da Milan. Allora, sai, uno dei film cult della mia vita, tra i film cult della mia vita, tutti gli amici miei che so praticamente a memoria, no? C'è una battuta di Tognazzi che fa un ciò parole e se ce l'avessi è meglio che un le dica. Capito? No, comunque, tutti felici, Donnarumma rimangono, Raiola accontentato, vediamo come e a che prezzo, questo lo scopriremo vivendo, certamente è un Milan competitivo quello che sta nascendo, al di là di questo effetto imbarazzo che io credo si possa provare. No, beh, l'imbarazzo è questa cosa, bisogna archiviarla, gli è riuscita male la trattativa e penso per errori di entrambe le parti, perché insomma nelle liti è sempre difficile mettere il naso e vedere il primo aver fatto la mossa sbagliata. E per quanto riguarda il Milan direi che insomma si sono mossi abbastanza bene, anche se un po' contrariamente a quelli che sono i principi di base, no, della costruzione di una squadra, cioè si diceva che bisogna partire dall'ossatura centrale, mentre il grosso degli acquisti è stato fatto sulle fasce. C'è un po' questa come dire, mania del momento e anche in particolare per il gioco di Mattel, cioè di volere questi esterni, come se gli esterni risolvessero sempre tutto, quindi insomma al Milan adesso non mancano, stanno ancora cercando il centrale di centrocampo e centrale di centrocampo, cioè, anche quello non ha... Anche quella è una telenovela che è un po' più semplice, quella di Biglia. Io continuo a pensare che sia il giocatore, il prototipo del giocatore ideale, poi andrà per le lunghe, ha fatto le visite mediche, andrà in ritiro con la Lazio, lo Tito vabbè, chiede quello che non si può dare per un giocatore di 31 anni a un anno dalla scadenza del contratto, però magari arriverà. C'è anche una questione centravanti aperta, nonostante il ragazzino portoghese è stato preso, nonostante Bacca è ancora lì, insomma non so quanto gradito. Si parla di Kalinic, si sogna Aubameyang che vorrebbe anche Conte al Chelsea. Lui dice vorrei andare in Cina, ma questa non ci credo. Qual è il profilo del centravanti che serve al Milan? Sì, ma serve un centravanti vero, cioè Biglia, tornando indietro, è perfetto nel ruolo, sicuramente sarebbe... Ma anche Kalinic, no? Kalinic secondo me lo sarebbe. Anche Kalinic, sì, comunque serve un centravanti vero, cioè Aubameyang è già più un giocatore di movimento, bravo, che magari esatto. può piacere più a Montella, che insomma, ha sempre, come dire, ha avuto come sua idea quella di centravanti magari di manovra eccetera, un falso nuove, però io invece preferisco l'attaccante di rigore, quindi Kalinic potrebbe andare benissimo, insomma se piglia Biglia e Kalinic credo che trova la roba, secondo me va bene, sì. Guarda, Kalinic ha il profilo giusto per quella squadra lì. Mario, ieri intanto Milan ha giocato con il Lugano 4-0, in evidenza. Sentiamo Montella. Per prima cosa sentiamo Montella. È arrivata una nuova proprietà, grande entusiasmo, anche risorse mi sembra, che l'anno scorso nella squadra erano state messe pochissime risorse economiche, abbiamo degli obiettivi importanti, abbiamo l'obiettivo di rientrare in Champions e ci sarà da lottare perché bisogna superare delle squadre molto forti italiane che sono già collaudate come la Juve, l'Inter non è collaudato né forte come il Napoli, come la Roma, quindi la Lazio che è arrivata davanti a noi, quindi sarà una lotta molto, molto difficile, ma siamo consapevoli di questo, siamo anche consapevoli che ce la possiamo giocare. Veramente ho visto un calciatore di questo talento avere questo spirito di molto motivato, lo si è visto anche oggi, ha recuperato anche qualche palla in scivolata, insomma io credo che debba crescere molto fisicamente, si sta impegnando molto, lo sa anche lui e credo che ci ritroveremo un grande calciatore. Ecco, la prima parte politichese conta poco, mi interessa la seconda parte da commentare con Mario Ielpo. Il soggetto è Çalhanoğlu, giocatore che a me piace moltissimo. No, il giocatore è forte. Questo sicuramente, il problema è un pochettino. Se tu vuoi mettere giù la rosa del Milan, che sono tutti giocatori un po' fru offensivi, come dire, no? Sicuramente di grande qualità, cioè lì su quella fascia dovrebbero così darsi il cambio sulla fascia Bonaventura e Çalhanoğlu, cioè anche giocando contemporaneamente uno a centrocampo e uno nel tridente pseudo d'attacco, dico sì. Io, che poi l'aria non ci l'hanno, almeno l'anno scorso non ci andavano, e quindi insomma la squadra rischia un pochettino di essere leggera, anche cioè, considerando, dici che manca chi ricordo una frase di Eto'o, suonare tromba e suonare tamburo, se a me piace suonare tromba, ma se devo suonare tamburo e giocare terzino e fare sacrificio lo faccio a tempo determinato, cioè tu mi dici che in questo momento al Milan manca chi suona tamburo. Beh, abbiamo solo che sì tra quelli che sono arrivati, no? Lo stesso Conti, che dovrebbe insomma partire titolare, insomma, quello che l'aspettativa che c'è su di lui, anche le doti che ha, però giocava in una difesa a tre con più protezione, qui dovrebbe far tutta la fascia. Cioè, un pochettino da questo punto di vista bisognerà vedere come si riesce a trovare equilibrio. Io per tornare indietro nel tempo mi ricordo che il mio primo anno di Milan il giocatore decisivo fu Marcial Desailly, il quale da solo, Marcellone, si metteva davanti alla difesa e nessuno arrivava a un difesa. Cioè, no. È stato il primo anno, perché dopo è un po' calato fisicamente, ma il primo anno è stata una cosa incredibile. Beh, sai che avevi il muro, no? C'era esatto, The Wall lì davanti. Esatto. E venite, ragazzi, venite che ci penso io. Può essere l'unico innesto che ha fatto il Chelsea quest'anno con, come dico, mi sfugge il nome, insomma, il centrale che ha preso dall'Leicester, sì, che ha spostato gli equilibri dall'Leicester al Chelsea. Cantè, certo. Cioè, manca un pochettino, insomma, questo è un ruolo molto importante quando tu hai invece. E poi altri giocatori così insomma più leggerini. No, ma comunque manca anche chi ha la leadership e l'idea. Palla a me che faccio partire il gioco e torniamo a parlare di Biglia. No, aspetta, un attimo, prima del traffico, un'ultima domanda, Mario Ielpo, tornando ai Donnarummas, la vicenda di qui sopra. Ti faccio sentire Mirabelli e poi ti chiedo un tuo commento personale. La verità è che io personalmente ho voluto fortemente Antonio per unire anche una cosa bella di ritrovare due portieri che potessero giocare insieme in un campionato di Serie A, era una cosa bellissima, ma al primo posto c'era una valutazione tecnica dove io ritengo, lo ritenevo e ritengo fortemente che Antonio possa fare il dodicesimo del Milan, quindi possa giocare quando sarà chiamato in causa tranquillamente, e non è un pacco postale come qualcuno magari ha pensato di portarlo. Questo me ne dispiace più per Antonio, ma non sulle scelte nostre, siamo trasparenti in tutto. Ecco, questa era Mirabelli a proposito Antonio Donnarumma, naturalmente, a proposito della scelta. L'imbarazzo cresce, mettiti nei panni, Mario Ielpo, di Storari, eccellente professionista, eccellente portiere, eccellente professionista. No, grandissimo portiere tra i pali, per il resto soltanto ottimo, diciamo così. Sì, no, ma comunque è il numero 12, vai perché abbiamo i Donnarumma, sì. Esatto, scusaccio non pedita, insomma, dice di tutto, già risponde alla tua domanda. È evidente che insomma la cosa è strana. Il primo avversario di un portiere sono gli altri portieri in rosa, perché al 90% si sa che non è che c'è un turnover o un insomma il posto è uno, e quindi avere il fratello è una cosa strana. Sì. Forzata, perché insomma fino al problema del contratto di Donnarumma junior o senior dal punto di vista calcistico non se ne parlava del fratello, quindi è evidente che insomma, la situazione è strana. Grazie Marione, buone vacanze. Grazie a voi. Ciao. Buon tennis, Mario Ielpo, grande tennista. Traffico. Tutti convocati. Luca Marchetti da Sky, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Senti, ti ho chiamato perché ho un problema. Quale? No, non so dove andare in vacanza. Potresti andare in Ibiza, Formentera, trovi qualcuno, secondo me. Non mi lasciano, la Radio 24 non mi lascia. Se mi dai la vacanza, visto che deciderò all'ultimo minuto, a Terni, a casa tua, c'è un posto? Sì. Trovi... Ok. Assolutamente, quindi sei mio ospite allora. Sto più sereno, guarda. Sto più sereno e già, e allora posso continuare a parlare di pallone. Ascoltami. Sono contento di averti risolto un problema. No, so che su quello posso contare. Se non conti sugli amici, su cui puoi contare. Allora, vacanze a Terni. Devo fare, ho in programma un viaggio con Crosetti in Sidecar in Galles. Quindi passi da Terni prima di andare a Cardiff. Sì, ha organizzato tutto lui. Invece, magari poi faccio da Terni, già che ci sono, faccio un salto a Napoli per vedere come va. Perché a Napoli, secondo me, c'è una bell'aria. Chi dice? Sì. Chi dice che il Napoli non ha fatto mercato non capisce nulla. Ti faccio sentire cosa dice Montella. per quanto sia migliorabile o quanto sia migliorato, questo lo dirà il campo, perché ci sono anche gli avversari. Secondo me la squadra che si è rinforzata di più quest'anno credo sia stata il Napoli, proprio perché ha rinnovato i calciatori che aveva in rosa e quindi ha comprato Mertens, Ghoulam, Insigne, Hamsik e forse anche qualcun altro. Mi spiace per te, fratello, che hai bisogno di facce nuove, notizie nuove, volti nuovi, ma secondo me il mercato del Napoli è da 9. Allora, quando ho letto questa mattina, che non l'avevo sentito ieri, ho avuto la conferma che Montella è una persona estremamente intelligente, non ha bisogno della mia stima per continuare a fare il lavoro che fa. Ha fatto un piccolo errore perché Ghoulam non credo che ancora abbia rinnovato, ma poco importa nel concetto, e fondamentalmente credo che abbia ragione. Ragazzi, noi abbiamo parlato a fine settimana scorso di rivoluzioni, perché stanno cambiando tutti, sta cambiando la Roma, sta cambiando la Juve, sta cambiando il Milan, stanno cambiando tantissime squadre. La rivoluzione al contrario la fa il Napoli. Certo, e ai nastri di partenza, Juventus a parte, c'è stata Juventus e ai nastri di partenza, ciao a tutti, noi sappiamo già chi siamo e dove vogliamo andare. Esatto, non è un particolare da sottovalutare. Ed è per questo, ed è anche per questo che sono ragionevolmente ottimista sul rinnovo di Reina, che è uno dei leader dello spogliatoio. Sì. Questo è corretto. Infatti, ma poi conosce un ulteriore vantaggio, è che si conoscono come una famiglia. Parlavamo dei Donnarumma, ma non voglio più toccare quel capitolo lì perché mi fa diventare un po' triste. Sarri conosce anche quelli, e lui su questo va a fatica, anche gli altri che gli hanno dato l'anno scorso. Quindi sai, adesso è veramente un Napoli che non aspetta altro che di partire. Parlavamo di Milan. Senti, ma Biglia, dai, ma per favore. È il più lungo braccio di ferro della storia dei bracci di ferro, perché è iniziato un mese fa. Luca, parliamoci chiaro, cioè, non puoi chiedere la luna e anche tutte le stelle. Io sono d'accordo con te, è un rischio che però Lotito si è sempre assunto ogni volta che ha fatto una trattativa, e finora nel 90% dei casi ha sempre avuto ragione lui, per cui se tu tieni un comportamento che alla fine paga in tutti i sensi, ti dico perché non continuare a farlo da proprietario della Lazio. Però di contro ti dico che tu quest'anno rischi di perdere un possibile introito da 40 milioni di euro di cartellini più risparmi degli ingaggi di Keita e Biglia, e ti levo De Frari. Su Keita possiamo ragionare perché è una cosa diversa, ma su Biglia, 31 anni, scadenza di contratto l'anno prossimo, insomma, se parliamo di cifre che possono stare su questa terra è un conto, se parliamo di 20 milioni ti rido in faccia. Io sono d'accordo, e secondo me fa bene il Milan a cominciare veramente a guardarsi intorno, perché comunque è un ruolo molto delicato, di giocatori importanti ce ne sono. Le alternative che ha in mano in questo momento in Milan sono Krikoviac del Paris Saint Germain e soprattutto Badel della Fiorentina, che magari sono meno bravi di Biglia, ma non sono dei brocchi. No, non sono dei brocchi, però insomma il numero uno di questo elenco rimane quello che è andato a fare le visite mediche, è andato in ritiro con la Lazio, gioco forza. Chi potrebbe sbloccare questa trattativa? Però io come parametro ti do Borja Valero. Come parametro mi dai Borja Valero, certamente, perché quello deve essere il parametro, insomma. È altrettanto bravo. Di questo stiamo parlando. Esatto. Poi determinante sarà anche la volontà a questo punto deve metterci naso il giocatore, deve metterci bocca al giocatore, perché. Sì, io credo che ce l'abbia già messa, ma che un po' sia di difficile più convincere Lotito. Senti, mi spieghi. Sì, ma dopo diventa un caso mediatico. Mi spieghi. Ma forse è il caso che diventi mediatico, perché questa situazione, se no, non si sblocca. Mi spieghi la storia di Schick, che problemi fisici, ma forse in tre, sì, che succede? Nei test che sono stati fatti a Torino, evidentemente non c'è stato, la Juventus vuole un approfondimento, vuole cercare di capire se è tutto a posto o meno, sicuramente non c'è ancora l'accordo totale fra le due società, bisogna soltanto pazientare e avere delle comunicazioni ufficiali da parte di Sandoria Juventus rispetto a questa operazione, che praticamente era conclusa, perché l'avevamo data per conclusa, ma ragazzi, hanno andato a fare le visite mediche allo Juventus Medical Center, ma non è mai arrivata l'ufficialità. Questo ha messo un po' di pepe sulle nostre penne o sulle nostre tastiere per cercare di capire cosa fosse successo, perché arriverà prima l'ufficialità di Douglas Costa che quella di Schick, quindi evidentemente qualcosa non torna. Forse ci sarà bisogno di fare un approfondimento di visite relative a cosa non si può sapere ancora, siccome sono cose abbastanza particolari, ma non perché credo ci siano problemi di salute da parte di Schick, anzi no, ma tanto parlano 30 milioni di euro, certo, quindi... ma comunque non lo sapremo e... l'unica cosa che sappiamo certo è che qualsiasi problema possa aver mai avuto Schick all'interno di questi test che ricordiamo sono sia atletici che fisici, sì. Non è assolutamente a rischio né la carriera, no, né tantomeno la salute. Chiaro, questo possiamo assolutamente sgombrare il campo da qualsiasi tipo di equivoco. All'Inter, fronte Inter, si lavora sui giovani, va bene, ma si cerca anche una stella. Ieri si parlava di Pastore e si continua a parlare di Nainggolan. Chi voteresti? Tra i due? Sì, come più probabile. Ma... come più probabile non voto nessuno dei due, mi astengo. Ti astieni? Luca Marchetti astenuto. Cioè. Che è difficile che lo faccia generalmente, però in questo caso probabilità basse. Non me la sento. Sì, intanto perché sono due nomi molto mediatici per i personaggi che ci sono ora all'Inter. Pastore, ogni volta che si è parlato di un suo possibile ritorno, l'abbiamo sempre appiccicato alla squadra dove stava lavorando Sabatini. Nainggolan è un giocatore che non può non piacere a un grande club come vorrebbe essere l'Inter, come lo è, ma come vorrebbe continuare ad esserlo anche in maniera maggiore. Piace tutto il mondo. E c'è Spalletti che lo ha fatto diventare ancora più importante, ancora più lucente. Detto questo, da quello che sappiamo noi, Carlo, il ragazzo ha sempre detto che voleva rimanere a Roma. La Roma non ha intenzione di cedere perché è già ceduto abbastanza. L'unico problema è il rinnovo di contratto, promesso 12 mesi fa è mai arrivato. Arriverà il rinnovo di contratto per Raggia. Vediamo. E intanto mi rimangono nella mente quegli Instagram dell'altro giorno. Ma lasciamo stare. Sì, però è vero che i giocatori ormai sanno benissimo che i loro social sono scannerizzati ai raggi. Io l'ho letta sinceramente, forse in maniera troppo superficiale, come uno scambio di battute fra amici. Cioè, ti prendo in giro. So che c'hai un po' di prurito e allora ti prendo in giro e ti metti in difficoltà. Sì, ti prendo in giro con gli amici, è quello che è successo a Borja Valero, che ha mandato il WhatsApp vocale all'amico che poi lo ha spedito direttamente all'Ansa. Senti una cosa, in cui non ha detto nulla di male. No, ma non è questione di nulla di male, dai, però cioè, mi sembra tutto folle. Mi sembra tutto folle. Sempre a proposito della Roma, vedrete che arrivano gli esterni, arrivano i grandi giocatori. Non l'avete ancora indovinato, non sapete chi si chiama Sengi Sundar, beato chi lo conosce. Il Dybala del Bosforo, Dybala turco. Perché Dybala, spero che non ci stia ascoltando, un po' lo ricorda non soltanto come giocatore ma di fattezze fisiche. Solo che Dybala diciamo che ha dei connotati più gradevoli rispetto a Hund. sono posizionati meglio, talento, perché è un talento, perché questo ragazzo è stato convocato già da Terim in nazionale maggiore, ha fatto 4 presenze e 2 gol. Se vogliamo guardare i numeri, io sinceramente non l'ho visto lo scorso anno con una squadra di fatto neopromossa, è arrivato secondo, giocando da titolare, e poi c'è come sai quando le case d'asta certificano la provenienza di un dipinto? Sì. Monchi sui giovani è uno di quelli che può mettere il bollino. Per carità. Luca, grazie. Allora, differente 13 milioni di euro. Sì. Beh, ma la Roma ha le tasche piene con tutti quelli che ha venduto. Sì. Senti, amico mio. Allora conto sui tecnici, chiami la mamma per favore, non disturbo e mangio giusto. Va benissimo, ciao. Mangio non lo so, però ripartiamo. Ti assicuro. Ciao Luca, ti abbraccio, grazie Luca. Marchetti da Sky, noi andiamo con la borsa e poi c'è Nando Orsi con tutti i temi che ci fanno più... insomma, più chiacchierare più divertire. 800 24 00 24, a cominciare da quello di ieri di Cassano al Verona. Ad avere i soldi di Inzaghi, ad avere i soldi di Pippo Gol. Chiudiamo, chiudi. Tutti convocati. I vulcani sono montagne arrabbiate? Gli antichi romani facevano il bagno nel Tevere? I paesi sono tutti uguali o tutti diversi? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Torna a Terra in Vista con l'Italia spiegata a mio figlio. Parleremo delle tante diversità dell'Italia attraverso le città, i fiumi, le coste, le montagne, le isole. Cercheremo di capire insieme perché l'Italia è un paese davvero unico. Insegniamo anche a fare la pizza, quindi? No, dai, pizza e mandolino, no. Terra in Vista, l'Italia spiegata a mio figlio, con Telmo Pievani e Federico Taddia. Ogni domenica alle 12... su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Mi ero messo la base dei Donnarumma, la telenovela dell'estate, sapete perché? Ve lo spiego subito, anzi ve lo spiega Maurizio, 800240024 numero verde. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Carlo, ciao. Sono un grande estimatore della tua trasmissione. Grazie mille. Ci divertiamo, allora, ci divertiamo sempre. Assolutamente, intanto saluto tutti i componenti dello Juve Club Doc di Gela, perché noi... Salutiamoli tutti uno per uno, non per nome, perché finiamo alle 3:30. No, assolutamente. Il presidente però Rino Ferraro, il neoeletto, lui lo saluta. Ah, vabbè, il presidente Rino Ferraro lo saluto anche io. Allora, ti volevo dire, ma quanta responsabilità sta dando il Milan ad Antonio Donnarumma? Antonio? Ad Antonio nessuna. Beh, nessuna relativamente, perché non succede, ma se succede. Ma non ma sì, dai, Maurizio. Salta qualche partita deve sostituirlo, magari in una partita importante. Cosa potrebbe accadere a sto ragazzo? Ma no? Niente, ma a 26 anni comunque fa il portiere. Io non credo ci sia grande responsabilità. Anzi, vorrei averla io. Vorresti averla anche tu, la sua responsabilità, a quel prezzo, cioè. Non credo sia questo il punto chiave del problema. La responsabilità sarà, semmai, ce l'ha il fratellino. Perché c'è un europeo da Under 21 a dimenticare. È vero che a casa tua ti perdonano tutto, però è lui che deve dimostrare a questo punto di valere quei soldi, che sono tantissimi. Prende più o meno quanto Neuer, estremamente più di Buffon. Adesso comincia il difficile per Gigio, quindi sul fratello è tutto grasso che cola. Silvestro, buongiorno. Buongiorno signor Genta. Carlo, va bene. Carlo, dica. Sì, perché anche se è più giovane. Dica. No, ma che è giovane? Ascolta. Giovane una volta. Dica. Io ne ho quasi 60, caro. Dimmi, che sei. Ascolta, io mi ricordo il Milan, la Cavese, mi ricordo tutte queste cose. Ah. Però la sceneggiata qua di Donnarumma mi è dispiaciuto. Secondo sei me milanista? Doveva prendere e andare. Sei milanista, immagino. Io sono milanista, ma no, milanista di ma non tempi. È questione, Silvestro, non è questione di prendere e andare, perché alla fine va bene che resti. Dico solo che questa vicenda, da tifoso milanista, se fossi un tifoso milanista come te, mi metterebbe un pelo di tristezza, un pelo di così... di imbarazzo, quantomeno, perché è una... Posso usare la parola buffonata? Eh? Una costosissima buffonata. Buongiorno Nando Orsi. Buongiorno a te. Io sono un po' tranchant, però ne parlavo prima con Ielpo. Però mi sembra tutto una pagliacciata colossale. No, diciamo che si è cominciato da dove è finito, da dove è cominciato. Donnarumma era portiere del Milan. Sì, dopo un mese di cose ritornate sempre. Sì, ma questo mese però è difficile dimenticare, perché molto difficile. Sono cose che in un mondo normale non dovrebbero succedere, nemmeno se si tratta di calcio. Senti Nandone, dimmi. Sai cosa interessa agli ascoltatori, ma anche a me, che mi intriga da matti. Ne ho parlato ieri, ho fatto venire anche Barisoni a voce economia, che è un ultra del Verona, anche se dice no, non è vero, non sono ultra. Quei tre lì davanti. Ma dai, bellissimo. Come la vedi? Beh, l'azzardo. Vedo un bel azzardo, vedo un Verona tecnicamente migliorato, però a livello fisico forse no, perché campione di Serie A, 90 minuti a settimana, quei tre che sono, soprattutto quei due, Cerci e Cassano, che sono un anno praticamente che non giocano. Cassano sono molto più, è molto più di un anno, Cerci pure, anche perché l'anno scorso ha giocato 45 minuti in tutta la stagione, quindi. Però sai, su Cerci deve allenarsi, Cassano ci vorrà un po' di più, e soprattutto ci vorrà qualcuno che ha voglia di farsi un bel mazzo dietro di loro. Direi di sì. Più che altro secondo me devono fare un grandissimo ritiro, cioè devono proprio cominciare a centellinare il mangiare, il bere, l'allenamento, devono farlo al massimo, non devono sbagliare niente, cioè, devono cercare di non farsi male, perché lo stiramento è dietro l'angolo, perché il dolorino c'è. E quindi però devo dire che fa piacere, perché poi Verona non è una buona, è un'ottima piazza. Io capisco i veronesi, perché fossi tifoso del Verona come a Barisoni sarei contento, sarei comunque eccitato per questa idea, tanto grosso modo penso di salvarmi, no? Ma poi è qualcosa di curioso, di intrigante, di interessante. No, infatti, perché Verona è contenta. Ma Verona è contenta. Poi tra l'altro Verona non è neanche una piazza che devi richiamare allo stadio, perché Verona notoriamente è una squadra, è una tifoseria che va allo stadio sempre, quindi 20-25 mila ogni partita c'è sempre, poi soprattutto con Sorrentino in Serie A. No, ma è proprio una scelta societaria, è una scelta intrigante. Certo. Bisogna vedere, perché insomma, noi non possiamo neanche dimenticare Cassano, le Cassanate, perché tu diventi grande, diventi padre, diventi marito. Quello io non credo, Nando. Quello io non credo. Più che altro sarà una questione, come dici tu, anche di tenuta atletica, di capacità della squadra di sopportare fisicamente questo piccolo peso. Confesso che ne parlavamo prima da un'altra parte, io e Nando Orsi, non è la prima volta che lo sento oggi, voglio parlare con te del Napoli, però abbiamo poco tempo prima del traffico, sentiamo insieme Giuseppe, poi ti chiedo altri 5 minuti. Giuseppe è cascato, quindi anticipo il tema, ne parlavo prima, il mercato del Napoli è da 9, mando il traffico e poi ne parliamo. I love this game. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora eccoci. Allora, io sono un signor nessuno che parla al microfono. Tu sei stato un grande portiere, sei un grande commentatore. Montella è una persona intelligente, oltre che un bravissimo allenatore, l'abbiamo sentito prima, e ha messo il cappello sul nostro pensiero, dicendo che il Napoli è quella che ha fatto il mercato migliore di tutte, perché si non conosce, ha venduto nessuno, ma certo, ma poi soprattutto era una squadra forte, lo sarà ancora di più, si conoscono a memoria, Sarri ha la conoscenza della panchina, di chi si trova dietro, dei backup, e quindi è quella che parte, lasciamo stare la Juventus, parecchio davanti a tutte le altre. Sì, è un gradino più su la Juventus, però è un gradino più su tecnicamente, come organizzazione di gioco secondo me la Napoli è superiore, quindi proprio per questo in questo momento l'antagonista numero uno è proprio il Napoli, perché uno ha cambiato poco, due ha preso giocatori soltanto in alternativa, Insigne, Akayikon. Certo. Non ci voleva il caso Reina, devo dire la verità. Mi sembra un falso problema, Nando. Non lo so, Carlo, però sai che c'è, che Reina è un punto di riferimento, tifosico. Il problema è sempre quello, il portiere è un ruolo delicato. Adesso sbagli perché non sei tranquillo. Vedrai che sta lì. Almeno una stagione ancora, ma proprio per la ragione di cui si diceva sopra. Sì. Ascoltami, invece, secondo te, che succede nelle due piazze in cui fa più caldo, Roma e Firenze? La Fiorentina, guarda, io ieri sono stato ad Arezzo perché mia moglie è di Arezzo, quindi conosco tanti tifosi fiorentini, hanno una delusione incredibile, quasi ironicamente scherzano su ciò che sta succedendo, e quindi perché Firenze è una città che ama così tanto la sua squadra che delle volte si sente tradita da certe situazioni. Ora bisogna vedere, non è andato via nessuno eccetto Gonzalo Rodriguez, poi dopo che non mi ricordo chi è andato via, Borca Valero. Ma sì, poi va via, però... andrà via Bernardeschi, andrà via Kalinic, sì, insomma tutti sembra un po' smobilizzazione, sembra sì. Un po' smobilizzazione, però sai, Firenze è una piazza che negli ultimi 5 anni ha fatto 4 quarti posti e poi dopo è arrivata ottava l'anno scorso, quindi è sempre una piazza abbastanza che ha fatto dei risultati. Quest'anno devo dire che parte con un po' di handicap perché allenatore nuovo, giocatori che devono andare via e insomma è così. L'altra piazza calda che dicevi, Roma? Sì, no, non fa caldo lì. Che caldissimo. Allora. Fa caldissimo dalla parte di Trigoria perché vanno via quelli importanti, fino adesso non arriva nessuno, i tifosi sono un po' preoccupati. Devo dire la verità un po' anch'io, però potrebbe essere un progetto nuovo, nel senso allenatore nuovo, direttore sportivo nuovo, voglio cambiare. Siccome arrivare quarti quest'anno è quasi come vincere uno scudetto, io non sono d'accordo, però adesso c'è sta questa mentalità. Arrivi quarto è come se avessi vinto, perché tanto la Juve è troppo lontana, secondo me è un alibi, però sono discorsi che fanno loro, sì. D'altronde il dio denaro è... E quindi un po' di preoccupazione c'è. La Lazio, se esce qualcuno, entra qualcuno. Fino adesso non è entrato nessuno e non è uscito nessuno. E purtroppo, come ho detto io, non vedo grandi problemi. No, lì non ci sono grandi problemi, perché lì c'è un piano economico che proprio si basa su una linea precisa. Più di quello non ti posso dare, più è capito? E quindi se entra qualcuno, esce qualcuno, non con gli stessi esborsi economici, però in prospettiva. La Lazio su queste cose qua più di quello non dà, però più di quello non dà negli ultimi anni, ha vinto un paio di Coppa Italia, la Supercoppa, ha fatto 5 finali. Sì. Quindi sai che cosa gli vuoi dire? È un'eccellente squadra, oggi come oggi è più forte della Roma, anche se ne parlavo prima con Luca Marchetti, è arrivato il Dybala del Bosforo. Cengiz Under. Non so neanche come si chiama. Beato chi lo conosce. Nando, ti abbraccio. Grazie a te, ciao Carlo, ciao. Lorenzo, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Devo rimettere la base dei Donnarummas? Sì, purtroppo va bene. Lasciate stare. Siamo vivo il calcio da lontano, efficientissimi. È un grande affetto per una squadra che funzionava solo quando c'era Mazzone e Piazza. Dimmi Lorenzo. Ma lo sport, il calcio in questo caso, che dovrebbe insegnare a tutti una certa moralità. Che senso ha dare un milione al fratello? Lo sport non deve insegnare niente, la moralità. Dovrebbe insegnare qualcosa. Che senso ha dare un milione al fratello di un portiere? Il quale farebbe il terzo portiere, il che significa che non giocherà mai. No, fa il secondo portiere, non giocherà mai. Lorenzo, non dobbiamo andare a chiedere al calcio la moralità, perché non ce l'ha di suo. Io non mi scandalizzo, sono questioni di mercato, è mercato, è valore di mercato. Dico soltanto che non parlo di morale, parlo di eleganza, di serietà. Questa vicenda di serio e di elegante ha pochissimo, mi sembra una buffonata e tale rimane di altissimo livello, ma non cominciamo a dire che il calcio deve insegnarci qualcosa o deve insegnare qualcosa, peggio ancora non diciamo che deve insegnare qualcosa ai nostri figli, per favore. Ciao Pieragusto Stagi, come si sta al turno? Ciao Carlo. Tutto bene? Voi come state? Meraviglioso, guarda. Sempre qui, abbiamo Monterosa. Oggi devo dirti che ci stiamo un po' annoiando. Vabbè, era ora, dai, che vuoi, anche tu, incontentabile. Un po' di fuochi d'artificio. Sei incontentabile. Sì, ci ho preso gusto. Però dai, è un tour divertente. Domani ci cominciano i Pirenei, quindi domani si sale ancora. Dai. Si sale ancora e si scende, quindi. Sì, e lì comincia. Io credo sui Pirenei ci sarà lo scontro finale, il grande scontro finale, no? No, incomincia, perché lo scontro finale sarà la prossima settimana con le Alpi, dove ci sarà il Galibier e l'Isoar. Però domani si comincia a fare un po' di lavoro. Soprattutto mi attendo qualcosa di importante, perché deve farle, quindi cercare di muovere le acque da corridori come Quintana e Contador. Contador che è staccatissimo, Quintana che non è messo bene e deve in qualche maniera dare un senso al suo tour. E quindi le loro azioni, il loro muoversi all'interno del gruppo potrebbero essere quelle variabili che spero possano giocare a favore del nostro Fabio Aru. Sì, che mi auguro, che mi auguro ascolti un pochino di più Beppe Martinelli e così contenga un pochino di più invece la sua esuberanza, perché poi è così, è un campioncino, scatta, ha voglia di scattare, scalpita, però deve anche imparare a contenere un pochino le energie, perché la benzina è quella e quindi bisogna anche preservarla per l'ultima settimana. Bisogna anche un po' imparare da grandi corridori come Chris Froome, che si muove a ragion veduta facendo gli scatti quando li deve fare per dimostrare che è ancora forte, o comunque far capire che potrebbe essere forte. Io credo che Froome è chiaramente forte ma non fortissimo, quindi con un po' di intelligenza e meno foga possiamo veramente giocarcelo fino alla fine. E la prossima settimana dove metti la bandierina? Isoar, l'arrivo sull'Isoar in cima è veramente il trampolino verso Parigi, trampolino verso il paradiso, eh? Assolutamente, il cielo è lì, il sì, cielo poi, è lì. Poi c'è lo sappiamo, sui Pirenei una delle incognite è la temperatura che si sarà lì, perché è un po' come correre all'inferno. Tu, beh, c'è già una percentuale di umidità qui a Pau clamorosa e domani è data anche in aumento. Beh, e sì. Quindi, come si suol dire, quando però l'asfalto comincia a trasudare, quando le ruote cominciano a incollarsi, esatto, sull'asfalto diventa dolente. La respirazione, altro che affanno. Pier, ti ringrazio, ci sentiamo presto, perché grazie questo te, tour Carlo, questo, dai, non almeno oggi divertiti, riposati, questo tour sì, ce ne sta regalando un al giorno. Ieri ha vinto Kittel, Kittel. E per forza mi levi l'idolo Sagan in nome di sua maestà Tour de France, becca di Kittel. Siamo uniti dallo stesso idolo, dai, la giuria francese, cioè no, la giuria francese, la giuria internazionale presieduta da un belga, in realtà ha fatto veramente una cosa orribile, orribile. Ma che vadano a fare un giretto sui lì. Pirenei lì. A piedi col caldo. Ciao Pier. Ciao. Ragazzi, adesso c'è il GR, ma poi torniamo con Marco Nosotti, che si trova in un posto meteorologicamente non caldissimo, ma bollente dal punto di vista calcistico, come il ritiro della Fiorentina. State con noi. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Quanto dipendiamo dalla tecnologia nel lavoro e nella vita di tutti i giorni? Sono Enrico Pagliarini e ogni settimana 2024 intervisto i protagonisti dell'innovazione tecnologica in Italia e nel mondo. Tutto quello che devi sapere sui nuovi smartphone, le app, nuovi servizi web e molto altro. 2024 è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22, domenica alle 13.30 e in edizione podcast con tutte le interviste in versione integrale. Devo stare seduto in panchina a guardare. O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti! E andiamo! Tutti convocati. Ragione Oli da Bergamo che ci scrive un WhatsApp a proposito, 349-238-6666, Abemus Papu, perché una delle notizie di oggi è il rinnovo del Papu Gomez con l'Atalanta e quindi rimane, ci mancherebbe, il simbolo di questa Atalanta, rimane fino al 2020. Biagio da Torino, buongiorno. Dottore, volevo fare dottore, adesso esageriamo. Volevo fare una considerazione sul mercato del Napoli. Il non vendere, secondo me, un personaggio come Insigne, Mertens, e Koulibaly e come aver acquistato tre giocatori che sul mercato comunque oggi non ci sarebbero. Questa era la considerazione principale. Sì, considerazione perfetta. Infatti il mercato del Napoli, è inutile che ci ripetiamo le stesse cose. Il nostro pensiero è questo, è quello che ha espresso prima Montella ed è ampiamente condivisibile. È un mercato che è stato molto costoso, ma è un mercato che inedito ma intelligentissimo. Marco Nosotti, eccoci qua, ciao, buongiorno a tutti. Mi viene in mente una canzone di un miliardo di anni fa, ma che caldo fa. Se non lì dove sei tu a Moena. Dove sono io no. Dove sono io, tu no. Fortunatamente si no. Sta molto bene. Sì, ma a Firenze, ma che caldo fa. Ma che caldo fa. Perché sai, qui siamo una visione paradisiaca della vita. Non posso essere altro per la Val di Sasso, ma per i tifosi che sono qui, che vengono, fanno vacanza e amoreggiano con i propri colori preferiti. Qui sono quelli bravi, ma qui si aspettano un colpo. Non è che non siano bravi quelli di sotto, ecco, voglio dire, quelli che sono ancora a casa. No, però Cazzatelli, io suppongo di sì, eh. Sì, li capisco, perché in questo momento pensano che la loro squadra venga saccheggiata. Lo posso anche capire. Non è che pensano. La sensazione è quella. C'è una ripartenza con un Pioli caricatissimo, con qualcuno da vecchia guardia, come abbiamo visto a Story, che dicono abbiate fiducia, stiamo costruendo, però aspettano il colpo. Vai, il colpo, sai Marco, alla fine è una questione di fiducia, no? Mi sembra che in questo momento sia ai minimi storici. La fiducia reciproca tra Della Valle e Firenze non è tanto questione di colpi. Però il tuo amico Pioli è arrivato quando c'era una squadra, ha cominciato quando ce n'è un'altra. Eccolo qui, sentiamo Pioli. Da oggi, da domani, dal 31 agosto, io spero da prima del 31 agosto, quello che saranno i miei giocatori saranno i giocatori più forti che io abbia mai allenato, e con loro voglio fare delle cose importanti. È una sfida bella, una sfida molto affascinante, una sfida che ci vedrà impegnati tutti i giorni a cercare di ottenere risultati. Questo è quello che vogliamo fare, questo è quello che voglio fare insieme ai miei giocatori, questo è quello che mi piacerebbe fare con tutto l'ambiente, e per far questo abbiamo bisogno di giocatori veramente motivati, veramente vogliosi di vestire questa maglia, che ripeta una maglia importante, e noi dobbiamo essere orgogliosi di vestirla. Tuo amico Pioli, l'anno scorso è capitato in una casa chiusa, quel bordello che era l'Inter, quest'anno in una casa che sta crollando. Nel senso che sta cambiando profondamente, perché il Parco è andato, e quello che significava per Firenze lo sappiamo, al di là del giocatore. E Bernardeschi oggi fa capire, anche oggi, che è questione di tempo che arriverà l'offerta importante dai 40 in su, e la formalizzeranno anche se incontri non ci sono stati. E Bernardeschi, talento italiano, è il futuro della ricostruzione del ricambio generazionale della Juve. E qui c'è tempo, bastare, poi gli altri nomi che stanno arrivando sono giovani giocatori di prospettiva, mentre qui Pioli ha bisogno di 5 giocatori pronti, e soprattutto continua a corteggiare Kalinic, cercando di fargli rimangiare io ho la netta sensazione che Kalinic finirà al Milan, con buona pace del Milan, perché dicevo prima era il giocatore che serve, secondo me, proprio per caratteristiche a questo Milan e a Montella. Bravo. E poi lì ne riparliamo, insomma. Bernardeschi, che oggi compare sulla Gazzetta dello Sport, che in questo momento sembra una bella 2000, costumi in prima pagina, e andrà a Torino con buona pace, sorpreso, con buona pace di Bernardeschi e della Juventus. E si tratta di capire intorno a cosa costruire la Fiorentina. Non arriveranno grandi nomi, ma dovrà essere bravo Corvino per costruire una squadra che sia quantomeno divertente. Intanto ci bacchetta il nostro amico Marino Bartoletti la canzone, ovviamente era una parafrasi, non era ma che caldo fa, ma che freddo ma fa, ma che freddo, ma sì, ma è evidente, era una parafrasi, era Marino mi sta scrivendo, ti leggo l'ultimo WhatsApp. Nada Sanremo 1969, quinta classificata in coppia con i Roxas, me lo sta scrivendo Marino Bartoletti. Tu ragazzo mai deluso, hai rubato dal mio viso quel sorriso. Meno male ci sei tu, Marco, se no viene qui e mi picchia Marino. Ascolta. Comunque, no, sai, qui hanno pronto Simeone per il Ciolo. Vedi, ci sono giocatori di prospettive nuove. Sono arrivati. Zecnini è arrivato, ma è un norvegese under 21. È arrivato Granja, che è un altro, è un under 19. Arriverà dallo Slova Liberec. Ma non sono questi colpi. È che in mano a Pioli proveranno a costruire qualcosa. Anche perché devi trovare il sostituto di. Tu vuoi giocare 4-2-3-1, ma non hai il trequartista Saponara pronto. Allora questo il giocatore del Nizza, quel 92, Eysseric, è pronto, lo diranno, ma tutto deve essere messo alla prova del campionato italiano e alla prova della pazienza dei fiorentini, che forse devono capire che un mezzo anno zero c'è e lo si fanno i nomi dei vecchi, la ripartenza, gli Astori, la compagnia bella, Vesino, importantissimo per stravede per lui Pioli, e soprattutto il bel volto a questo punto rimane quello di Federico Chiesa. Sì, che è l'unico che certo di rimanere, è l'unico, l'ultimo gioiello di famiglia, è giocatore l'ultimo moicano. L'ultimo moicano. No, ma quella è una scelta corretta da parte della famiglia Chiesa, perché comunque sia la squadra, lui sarà titolare, ha bisogno di giocare, a quell'età si ha bisogno di giocare, di avere anche il tempo e lo spazio per sbagliare, e quindi è la collocazione ideale per Federico in questo momento. Non ci sono dubbi in proposito. Marco, ti abbraccio, grazie, buon lavoro, buona estate. Ma tanto ci risentiamo, ma che caldo fa Marino, parafrasi. Allora, Nicola, provincia di Caserta, poi porta a fare un giretto vocale per i ritiri. Pronto, buongiorno. Guardi, buongiorno. Io posso? Come no? No, guardi, io non sono un tifoso, uno che segue lo sport, il calcio in una maniera così spasmodica, però veramente questa polemica succhevole su Donnarumma mi ha veramente sorpreso in negativo, perché bene ha fatto lei a prendere distanze da questo sistema, da questo modo di fare, che non ha nulla da insegnare, perché se noi da un lato diciamo ai nostri giovani di darsi allo sport perché si possano coltivare dei valori che servono poi per proiettarsi nella vita, qui non vedo che cosa c'è da apprendere. Allora, bene ha fatto lei a prendere distanza da questi comportamenti che nulla hanno a che vedere con i valori, con un sistema di crescita delle persone, individuale e anche collettivo, ma anche dello stesso Donnarumma, perché non ha insegnato nulla. Sì, ha ragione, ma parliamo di valori, torniamo su questo discorso, non mi sembra il caso, Nicola. Non mi sembra il caso. No, per carità, io non voglio tornarci. È una mia riflessione che volevo esternare, perché non sono uomo di calcio, non seguo allora, lo sport. Allora, Nicola, quando parliamo di calcio è come quando parliamo di musica, di cinema, eccetera. Non ripeto, mamma mia, sto invecchiando con un disco rotto, devo trovare altre similitudini. Non dobbiamo lasciarci impressionare dai soldi che circolano, perché i soldi che circolano sono quelli che vuole il mercato. Quindi non mi scandalizzano gli stipendi dei giocatori, non mi scandalizzano le cifre, non mi scandalizzano tutte queste cose, perché né io né lei possiamo andare a fare lo stesso mestiere con lo stesso risultato. Piuttosto in questo caso è stata fastidiosa l'intera vicenda, appunto, è stata una telenovela riuscita molto male. Dunque vi ho promesso che vi porto a fare un giro per i ritiri, giro vocale. Ta-ta-ta-ta-ta. Partiamo dal Napoli, quando abbiamo parlato oggi Adimara ha parlato di Avarà. Stiamo lavorando tantissimo bene per migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Vogliamo fare meglio dell'anno scorso, sicuramente. Quest'anno, sinceramente, è un sogno per tutti vincere il campionato. Stiamo lavorando bene, pensiamo partite dopo partite e poi vediamo alla fine quello che accadrà. E adesso dove andiamo? Ad un posto dove, insomma, c'è un po' di caldo. Brunico, Inter, D'Ambrosio. Come ho detto prima, è una natura sicuramente competente che penso ha delle ottime idee, ha raggiunto degli ottimi risultati con le squadre precedenti, ma la differenza la dobbiamo fare noi, perché siamo stati noi i principali, diciamo le principali colpe le dobbiamo dare a noi stessi, e quindi dobbiamo noi riscattarci prima di tutto. E beh, Pinzolo, 8-0 al Pinzolo non... non è che può risolvere tutti i problemi della Roma, anzi rimangono tutti lì. Vabbè, vogliamo sentire l'analisi di Francesco sull'8-0 al Pinzolo, facciamo pure. Riportare quello che abbiamo fatto in questi giorni in allenamenti, però molto soddisfatti in particolar modo del primo tempo, ma non tanto per i gol, per il desiderio di rifare quello che gli chiedevo. Vedere Perotti ragionare molto dietro la punta, venire a prendere palla tra le linee quando lui è abituato, ad esempio, a ricevere sempre palla larga, ha dimostrato la sua maggiore pericolosità e stiamo lavorando su questo nei suoi confronti, come in tanti altri giocatori giovani che si sono mossi veramente bene. Nel secondo tempo avevo troppi giocatori fuori ruoli, paradossalmente ha fatto con un difensore centrale che faceva il centrocampista, non avendo alternative, ma oggi era programmato far fare a quasi tutti 45 minuti. Tranquillo Di Francesco, poi arriva il Dybala del Bosforo e mette a posto le cose. La Lazio lì invece, insomma, sembra un quartier generale quello di Auronzo, sorvegliato dal generale Lotito. Parla a nome di tutti. Questo stagione sarà molto importante perché vogliamo confermarci dopo quello che abbiamo l'anno scorso fatto, quindi sarà molto importante subito essere pronto. Sicuramente siamo rimasti un po' male perché volevamo arrivare quarti, però alla fine abbiamo raggiunto l'obiettivo, quello era ritornare in Europa, quindi per quello siamo sicuramente felici, però come hai detto tu, quest'anno possiamo secondo me ancora arrivare più alto perché vogliamo il quarto posto anche quest'anno. Vabbè, se può fa, se la Lazio non è questa, se può fa. Era un'eccellente squadra, rimane un'eccellente squadra anche perché nulla è stato toccato. A differenza del Napoli, vediamo qualcosa, io credo, succederà, però la sostanza non cambia. Il mio amico Tancredi Palmieri, invece, adesso, a proposito di soldi e movimenti miliardari, morale, insegnamento per i ragazzini, qui da noi, vabbè, si fa patria della demagogia, si dicono tutte queste cose. In Inghilterra io credo che non si facciano grandi problemi nel vedere la propria squadra che spende montagne di quattrini. Ciao Tancredi, Betting Sports. Madrid. Madrid, vabbè, ma che fa Madrid? Non si può dire. Vabbè, allora ciao, allora ciao, se non me lo dici ciao, non ti se voglio lo dico più sentire. In camera carità ti sto. Va bene, senti, però parliamo comunque di mercato europeo. La morale è andata in ritiro monastico da anni nel calcio, la morale... Ma di che morale stiamo parlando? Ma cosa significa morale? Ma significa nulla la morale, da quando... Guarda, la morale non significa niente dai tempi di... Jackson o Banco de Napoli, guarda. Al calcio chiediamo serietà, buona gestione, non certo lezioni di morale. Quando sento parlare di troppi soldi o altro, mi viene in mente un'immagine. Quando quelle rare volte che sono costretto ad andare via da San Siro al fischio finale per qualche... motivo lavorativo, che devo fare qualcosa fuori dallo stadio, no? E scendendo, perché magari l'ascensore è sempre pieno, scendendo dalle torri ho il colpo d'occhio fuori all'esterno di tutti i pullman parcheggiati che vengono da fuori, i chioschi e altro, una distesa a perdita d'occhio di robe che hanno a che fare, esercizi commerciali e altro, e in quel momento compresi i pullman della TV, in quel momento mi rendo conto materialmente di quanti soldi muove una partita di calcio. E allora perché bisogna farsi problemi su quando si investe tanto? È sempre un investimento. I soldi sono come un'altra cosa che non si può dire in onda, bisogna farli girare. Ma poi l'altro giorno parlavamo di ritiri, di quello che può portare, ne parlavamo con il sindaco di Di Maro, di quello che porta il Napoli a Di Maro. È chiaro che il Napoli viene pagato dal consorzio dei comuni, dice a Napoli, quanto è bello. No, ma questo è evidente, cioè è chiaro che chi ospita il ritiro paga per avere insomma l'entertainment, ma ci guadagnano un mucchio di soldi, quindi ragazzi, non, questa è la situazione. Senti, ma di più, in Inghilterra, tu menzionavi l'Inghilterra. Però io voglio sapere anche qualcosa di calcio inglese. Lukaku all'Everton, Wayne Rooney, Rooney che torna all'Everton in pigiama, Lukaku allo United, poi c'è la storia di Wayne Rooney che torna a casa dopo anni. Questo, se voi vedete del, allora Olsen, Messina e Napoli, c'è un grandissimo fumo che sono le palle che girano a Mulinello di Antonio Conte. Appunto, questo, proprio... questo è un altro tema, perché si parla di un Conte già un po' così, un po' nervosino, Madonna mia, è veramente... L'unica cosa è che gli hanno appena rinnovato il contratto al doppio. Se non gli avessero fatto sto rinnovo, io credo che veramente avremmo potuto vedere il noce 2 senza 3 di Conte dopo aver abbandonato Bari e Juventus a metà luglio. Non lo può fare stavolta. Il punto è che, ricollegandosi a quello che tu dicevi prima, che tu dicevi i soldi, in Inghilterra con tutti i soldi che prendono le squadre, sono gli... guarda, io lo vedo perché vedo veramente le migliaia di notifiche, di messaggi che ricevo ogni giorno in periodo di calciomercato dagli inglesi, dai tifosi inglesi, che anzi dicono: ma perché non spendi di più? Ma mettici questi soldi in più? Ma non frega nulla, anche perché non sono loro. No, ma io fossi tifoso, cioè, se io sono tifoso di una squadra, io voglio che la mia squadra faccia una squadra, squadra competitiva. Poi i soldi mio, io metto i soldi che servono per andarla a vedere, se voglio, per vederla in TV, per andarla a vedere allo stadio, eccetera eccetera. Poi... e allora, parlando di notizie, visto che comunque sia Lukaku e Rooney ormai sono di sabato, quindi sono passati tre giorni, tre giorni sono più vecchi di Montgomery Barnes, come dice Raiola, i giornali di ieri serve per pulire il vetro della macchina. E immaginati i precontratti, dai, a cosa servono. E la notizia, in cui c'è la notizia in questo momento, quello che balla, parlando di Inghilterra, in zona Chelsea, sono la doppia trattativa. Da un lato con il Real Madrid per Morata, mollato lì sull'altare dal Manchester United, che l'ha usato come specchio per le allodole per invece fregare Lukaku al Chelsea, però ci vogliono 80 milioni. Però l'anno scorso il Chelsea ebbe un'offerta di 75 milioni rifiutata per Morata. Però allo stesso tempo il Chelsea, anche perché i nomi sono quelli e quelli, primo attaccante, e Conte aveva già bisogno di un attaccante pur avendo Diego Costa. Adesso, sicuramente, visto che andrà via, Aubameyang è l'altro piano su cui sta trattando. Sì, sì. L'offerta, il Borussia Dortmund vuole 80 milioni, ci potrebbe anche arrivare il Chelsea, nonostante l'età di Aubameyang. Sono molto risti a spendere tanto per quelli che hanno metà alta in Inghilterra, specialmente al Chelsea con Marina Granovskaya che, che tiene la borsa stretta, la borsa firmata stretta vicino al cuore. Comunque, pensa Morata... essere il marito di Marina Granovskaya che ti deve dare i soldi per fare la spesa. No, senti, per chiudere, visto che abbiamo ancora un minuto, adesso dico perché sei a Madrid, perché stai aspettando di andare a cena con Papé. Sì, però lui non viene perché lui nel frattempo è andato a fare brunch con il Paris Saint Germain. Può essere che veramente in questo brunch, che io sappia, gli ha detto al Paris Saint Germain: aspettatemi, abbiamo fatto sto brunch, il prossimo anno facciamo colazione, pranzo e cena, e per quest'anno mi faccio l'aperitivo ancora a Monte Carlo. Questo è quello che io sappia. Anche è vero che in un anno le cose cambiano totalmente. Però ecco, Real Madrid ancora non si è tolto dal collo Morata. Ovvio, se va via Morata ed entrano questi 80 milioni, tolto dal collo non è un gran peso, perché potrebbe servire. Fai entrare Mbappé, a cui hai provato in tutte le maniere a promettere che avrà minuti se viene a Madrid, e anche se va via Morata, io non so francamente al posto di chi dovrebbe avere minuti, visto che quei tre davanti sono tutti e tre i cocchini di Florentino, Cristiano, Benzema e Bale. Sì. Però gli anni passano per tutti, anche per loro. Grazie Tank, ci sentiamo presto. A voi, un abbraccio, Tancredi Palmeri, Bein Sport. Ci sentiamo domani, c'è Capuano che mi sostituisce, ho da fare ragazzi, perdonatemi, manco un giorno. Marco Visita, Ferronato, Giorgio De Luca, il nostro autore, Edoardo Lavezzani in redazione, ciao a tutti. Abbiamo visto abbastanza, ciao a tutti.